Il centro-sinistra aveva chiesto e proposto questa legge, l'iniziativa dell'Assemblea legislativa, e mi pare che noi abbiamo corrisposto al meglio ad un lavoro che Elisabetta Gualmini con la sua struttura ha fatto e che oggi ci dice, con 800 domande a settimana, sta incontrando migliaia di richieste, proprio perché sapevamo che con l'aumento della disoccupazione negli anni della crisi, che per fortuna cominciamo ad avere alle spalle, era anche raddoppiato il numero di persone in povertà, che era un numero molto esiguo rispetto alla media italiana o europea, ma che a quelle persone in povertà non gliela puoi raccontare con le statistiche. Noi vogliamo dare una mano a chi si trova in un momento particolarmente difficile della propria vita. In questo modo abbiamo corrisposto al fatto che con figli o senza figli, perché abbiamo esteso ciò che è il provvedimento nazionale, e fino a 35 milioni di euro all'anno della regione, noi aiutiamo chi è in difficoltà. Ovviamente con parallelamente, perché in età lavorative, politiche attive per il lavoro, perché noi vogliamo che chi riceve oggi un assegno mensile per avere un po' di ossigeno per sé e per la propria famiglia, il prima possibile possa tornare a lavorare, che è più dignitoso. Sì, siamo molto soddisfatti per i primi due mesi, visti i dati e gli esiti che sono saltati fuori, e quindi si conferma il fatto che il reddito di solidarietà sia una misura tipicamente adeguata ai bisogni della nostra regione. In prevalenza va a persone di un'età anagrafica piuttosto avanzata, quindi sopra sicuramente ai 46 anni, ancora di più agli over 56, una misura che per il 71%, quindi in grande preponderanza, va a cittadini italiani e soprattutto a nuclei familiari molto piccoli, per lo più costituiti da una sola persona, quindi tutte queste persone sarebbero state escluse dalla misura nazionale di contrasto alla povertà, proprio perché la regione Emilia-Romagna ha bisogni diversi rispetto alla Sicilia, alla Calabria o ad altre regioni. Quindi abbiamo messo risorse del bilancio per combattere le diseguaglianze, e i dati ci dimostrano ad oggi le domande sono addirittura 7.500, quindi 800 a settimana. Le prime 2.000 famiglie che sono già state accolte, alcune di queste hanno già la carta acquisti, sono famiglie dove addirittura c'è anche magari una persona che lavora con reddito discontinuo, intermittente o molto poco pagato, ma sono famiglie che avevano un bisogno, quindi possiamo dire che abbiamo un po' colto nel segno. Poi vedremo come andrà, valuteremo, monitoreremo, perché questi cambiamenti molto grossi dal punto di vista della macchina amministrativa richiedono tempo, e ringrazio gli operatori degli sportelli sociali che hanno le file davanti per accogliere le domande. Però ecco, che non si dica che non abbiamo letto un bisogno del nostro territorio. La soglia dei 3.000 euro la lascerete invariata? Stiamo ragionando, perché con l'introduzione a livello nazionale del reddito di inclusione, che sostituisce la prima misura nazionale, valuteremo il da farsi a livello regionale, perché noi vogliamo sempre garantire una flessibilità in più e, se volete, una dignità in più, una maggiore sicurezza per i nostri cittadini, per quelli della nostra regione. E quindi stiamo valutando se eventualmente ritarare, insomma, l'indennità, magari l'aiuto economico, però ci vogliono almeno 6-8 mesi di osservazione per fare le cose fatte bene.